Ali, ci sei? €8, un chilo d'olio, mezzo chilo ce ne sta, ho detto che volevo la bocca, altri che se lo tuo. Al 22 di quale? Sì. Al primo marzo, mi sembra, al primo febbraio, non mi ricordo. Sì, come sono battitati una ricetta di gioco? Quello di casa. Allora, perché c'è la direzione, le tipo tratte. Però lì c'è la direzione, ma è il tipo di gioco. No, io basta con questa telefonia. Con la chiavetta. Sono ancora 3, pago 5 euro al mese e ti dico che a volte manco di consumo, quindi un carico di 20 euro per 4 mesi, sono a posto. No, una carica anche io ce l'avevo, ero con Tiscali e mancate a 60, 70 euro, una notte in anni, pago computer, no, ma c'è la linea come che sia diretta, manco me ne accorgo. Carico di 20 euro per 4 mesi sono a posto, così. E va bene, c'è il sistema quello wifi con l'ha fatto Maurizio e va benissimo alla grande, non mi ha mai dato problemi. Facciamo la prova, il taglio contrario si toglie con la RAE. si fa la prova con quella piccola, se mi dice va bene, va bene. E se non va bene si piazza quella là. Visto che l'abbiamo tolta. Se invece quella piccola va bene, quella grande si rimette al suo posto, ci vuole poco attaccarla. Adesso usce, si è risulta proprio con quello. Non c'è problema. Sì, che è tutto sotto controllo. Natalino ha sentito la... attimino. Aspetta che inserisco l'amplificatore, vediamo un po', dai. Vediamo un attimino. Natalino. Hai sentito? No, no, negativo, negativo, figurati, aumento. Inserisco l'amplificatore e mi porta dietro un bel di mondezza. No, negativo. No, non ti sento, no, non ti sente. Ok. Cosa c'hai di contattore tu lì? 3 kW o 6 kW? Cosa? Adesso tu mi hai fatto una bella domanda. Se ti devo dire la verità, non lo so. Almeno 4 ne hai sicuramente. Perché ormai con 3 mi faceva saltare il salvavita. Capito? Adesso non più perché... Questo quando ero su al nono piano, però, quando ero su al nono piano. Qua invece ho 4 kW e mezzo. E quindi no... Il problema non c'è più, non c'è più. Infatti quando c'ho l'amplificatore inserito è tutto attaccato, non succede niente. Non succede niente. Ok. Va bene, va bene, va bene. Vediamo Marco se è arrivato a Città Mercato. Marco? No, c'è traffico al centro. Sono sotto il sottopassaggio di Santa Maria, dai. Devo andare da Decathlon. Sono vicino anche. Sottopassaggio di Santa Maria, sì, va bene, va bene. Ok, ok, ok, ok. Facciamo andare a comprare un chilo di già, non mi sembra troppo. 8 euro oggi, barato. Un chilo di 8 euro. Ok. Ora, allora, ascolta qua. Poi ti rispondo, ho cambiato mic, ho messo il palmare sempre il Turner più 2, ti ricordi il mitico Turner più 2 palmare? Vediamo un attimino, com'è la modulazione? Bella, forte, chiara, però non si sente nessun rientro di RF, con 60 invece si sentono dei rientri, con questa va meglio. Ok, beh, 60... Il 60 è normale, dai, e ti raccoglie tutto, se è amplificato. Va bene, allora, un chilo d'olio 8 euro? No, non è caro, però dipende sempre che olio hai preso. Qua l'autorisparmio l'ho preso in via Napoli, il Agip, 10,40, no, la 600 benzina. Devo raboccare già dall'altro giorno e ce n'è stato mezzo chilo. Non mi ricordo quanto costa quello del 147, vabbè quello del Sirenia, il 530, quello con una barca di sud. Sì, il Sirenia sì. Il Sirenia lo paghi minimo 12 o 13 euro al litro, evidentemente con l'Agip 8 euro diciamo che è un olio abbordabile, dai. Ma scusa un attimino, se stai traboccando vuol dire che ne mangia? No, mezzo chilo d'olio in 5.000 km, 4.000 km, se vuoi sia, non una macchina a benzina. Già va bene, il motore a posto. Ok, va bene. Sì, sì, sì. Dico Massimo, lì con te, di da te. 9.20, sì, quando fischi sei 22. Adesso abbiamo staccato tutto. Vedi un attimino solo di apparato. 9, quasi 9.10. E più di 10 dB sale, 12 dB, un bel sound. Va bene. Chiappa di rosmetro. certo va bene, alla grande. No, io lo voglio usare lo stesso il 2100. Con questo, così ogni tanto quando capita. Però non ho il tappeto. Ce l'ho viato pure, ma questo non ce l'ho. Non ce l'ho, capito? Non ce l'ho, vediamo, lo faccio fare. Così lo uso anche io, ogni tanto a farlo andare. Non me la bestiami, io. Non me la bestiamina. Più di uno. Uno e mezzo. Tranquillo, tranquillo. Natali, quindi tu lo senti a Sandro, lui non ti intende. Sì, ancora per poco, ancora per poco. Hai saputo se hanno spedito oggi? Stai seguendo il viaggio con chi hanno spedito? Hai chiamato per farti dare il numero della spedizione? No. Oggi, tre giorni lavorativi, lunedì, martedì, mercoledì, mattina dovresti ricevere tutto, mercoledì pomeriggio, capito? Però è meglio sempre che chiami e ti fa dare il numero di spedizione, capito? Perché se li ha, puoi seguire anche Bartolini, Benson, non so, GLS, non so con chi spediscono. Dicendo tutto. Pronto? Ma tu che microfono stai usando? 60 o che cosa? Che 60? Quando tu sollevi il microfono, sotto, c'è un tastino, sotto, della pianta del microfono, il basamento del microfono, sotto io c'ho un tastino che va indietro e spento, avanti è accesa l'amplificazione. Quel tastino, quel commutatore cos'è? Non lo so. È in avanti o indietro? È indietro. È lo contrario, vai, il microfono, tu non ho capito, il mio è in avanti, te l'ho anche fatto vedere, così è in amplificazione, ed è in avanti, così è indietro, si sente la differenza, così è indietro, così è in avanti, la senti la differenza? La sento, sì, la sento, sì, ma mi sembra strano, allora aspetta un attimino, allora guarda sopra, sotto al mic, dove c'è on off, io adesso ce l'ho in off. Quello è il PTT manuale, quello anziché schiacciare il PTT del basamento, il lock del basamento, schiacci quello e fa da PTT e da lock, capito? Quella è un'altra cosa. L'altro che c'hai più dietro, che impedenza c'hai, 500 o 50? Allora, lì non c'è, non so se ti ricordi, mancava la targhettina. Mancava la targhettina. Comunque, il tastino è verso l'alto, verso il mic. Ok, ed è giusto, a 50. Perfetto, a posto. Però non mi convince il sotto. Se il mio in avanti è aperto, indietro è chiuso, il tuo è al contrario. Non è molto lungo, l'interruttore al contrario. Non so cosa dirti, non so cosa dirti. Se lo metto in mi chiude completamente la modulazione e devo aumentare il mic gain per uscire. Non lo so, evidentemente è il contrario, quello che ti dica. Ascolta, ma non è che dentro quel microfono c'ha le batterie, no? Se c'ha le batterie togliere mi. Se c'è le batterie togliere, capito? Perché magari disinserisce il circuito di amplificazione, con le batterie ce le hai scariche e non amplifica, mentre in quella maniera prende l'alimentazione diretta dalla radio. No, no, mai messo. L'hai messo batterie qua, okra. Perché il 60 c'è una sede all'interno dove ci vanno gli stilo. Pensano che serva a qualcosa, quello serve solo se usi il microfono che non ha l'alimentazione diretta dalla radio, allora per essere amplificato devi mettere le batterie, ma se lo usi con i Kenwood, i Aesio, Icom, non ha bisogno di nessuna batteria, è solo il cambio di connessione, basta. Ma vabbè, pazienza, vuol dire che è nato così col microfono, solo che io ho tutti gli MC60, ne ho tre, sono tutte e tre così, anzi sì, vabbè, due Kenwood e uno ce l'ho sull'Icom, sono tutte e tre così, posizione in avanti e out dietro, che non ci sia, che non abbiano cambiato l'interruttore lì, l'angoscia è al contrario, che risulta a te Natali, sempre in avanti è l'interruttore del 60 per l'amplificazione. Cosa Natali? Sì, sì, sì, sicuramente c'è l'interruttore invertito, come posizione, però capite. Magari è stato smontato per pulire ed è stato piazzato al contrario, però l'amplificazione è in avanti, in out e chiusa, capite? Quindi, vabbè, ma non succede niente, l'importante è che funzioni. Abbassa adesso. Ok. Ok. E ma cosa ci aveva invertito? No, non lo so. Socla, l'ho soltanto spostato. L'ho spostato, l'ho alzato un attimino per metterlo in adesso in avanti. E ho visto che sta andando. Ma un bel sta andando più di prima, quindi ho ragione io, allora non l'avevi mandato avanti bene. Auto è spento, la preamplificazione è spenta, è disinserita, in è inserita. Adesso va bene. Non lo so, evidentemente non avevo tirato bene, allora dai, va bene, ha migliorato? Adesso è un MC60, prima non capivo che microfono era. Ok, va bene, dai, non c'ho quello spray, devo prendere quello spray per i contatti, per dargli una passatina. No, lasciamo stare, conviene sempre, io non gliene metto lì perché si impatta, io le faccio avanti e indietro, due o tre volte si pulisce il contatto, ma so, funziona bene. Adesso da tanto che non mi sta facendo quell'effetto che fanno, dai, che si chiude, capito? Che non dà preamplificazione, ma vedo che sta funzionando. Riesci a vedere? Adesso vedi. Adesso pompa, adesso va bene, è la grande. Oi. Secondo, questo va a mangiare il cane. Il cane ti stai mangiando qua? Sì, non va a mangiare a Pippo. Mi c'è Natalino Sandro. Arrivo. Sandro. Spaviero. Qua sono, qua sto provando a mangiare il cane. Ma che l'altro non mangia, tu imbocchi. Beh, non vuoi pulire un piatto. Ma quanta lì sei tu invece un bigliaetto? 50, non andi a McDonald's. Ah, così facciamo, dimmi già. Ok, no, perché mi sono sentito, guarda questa cosa, senza processore. Bella, perché è normale, anch'io sto con il processore, top. Questo è senza processore, guarda, è bella la modulazione, capito? Così invece col processore inserito. Va bene, no, mi sono ascoltato un attimino in cuffia, senza processore, va bene. Pensate un po' che io stavo modulando con la... Spreto, diciamo, per carità, vabbè. Ciao Luca di Luca. Ciao, ti sono andato prima, non mi hai sentito. Sì, già ti ho sentito. Acqua. Cari, hai mandato, se lo vuole, quel boxer, Sandro. Non ti ho capito, Lu, che cosa? Ho detto, se Claudio ti ha mandato quel box che stanno regalando. No, non sarà l'amico del Claudio di quello del papà, no. Ehi, amici, io. Ho capito, va. Si conoscono. Ma questo è bello, a chiasse, è bello, bello. Piazze gialle e marroni, gialle e marroni sono le chiazze, bello, eh? Esci ancora la giugana, mamma mia. Scrivania, cioè che ne sta a perdere, passato sotto la scrivania, ci sono mantenuto per metterci alla finestra, aggiungo il radio. Direzione Isola Rossa. Ma ho detto, i pesciolini? Ah, amico, dai, dai, birra, ho vino qua. Aprite la radio, lo metti, sulla britella. Tu usa per miscela, bevi. Lampa di tutto! Ma Natalino, mica sono arrivato qua. Sono arrivato a Bricoman, no, Brico Center. A dopo, ciao. Quindi che ricordo hai di... Mi sa che è stato in Sanro, quando l'ha detto se il segnale è uguale, secondo me sta andando meglio, perché adesso vogliono lo smitter. Sì, qualcosina è aumentato, eri 7, sei quasi 8, qualcosina è aumentato, o c'è qualche falso contatto? Sicuramente, la te Natali quanto sono, guarda un po', 1, 2, 3, 30, 40, 50, guarda. Ok, dai, chiudo il microfono che si è staccato il BTT di nuovo, mamma mia, per carità. Sono al telefono io. Ehi, claro, vediamo il controllo, se la te sta arrivando bene. Ricordo la macchina. arrivato, sono qua. Ehi, Natali. Dove sei? Santiago 5 stai arrivando, 5-6, non va bene. Cos'hai detto, Natali? Prova a terra chiave. Va bene, dai, rientra a casa, io sono qua. Comunque arrivi, già funziona l'antenna. Alghero, c'è nessuno? Valerio, attenzione Valerio, torre di controllo chiama. È andata a Pignara, Natali. Io già tre, se no perde poi il turno, capito? Bisogna andare PD subito. Sono interveloce, interveloce. Luca, sei chiamato da questo microfono? Oh, water l'hai cuto. Conservati, capito? Vada a Natalino, puoi conservare lui. Sono vale a me non sei sicuro, perché tu ti ribelli. Io faccio tipo le squali, mi gira attorno, poi quando me decido colpisco e spendo. Non lo so, ma lo tuo riscattore. Io gli la colazione, il cazzato, il malevare, lo spettino. Ma come gli faccio? No, non ho fatto l'olio stasera. E così mi dica. Un casino, soldi vanno e vengono. Peso molto, mi da Brico Center l'olio per macchina dalle 6,50 euro in su, capito? Sì, vabbè, l'ho fatto poi io qua l'olio, l'altro di spalla. E una media di 20 euro al giorno, senza comprare mai niente. Vabbè, a volte prendo fuori, cioè prendo composto, 8 euro, 9 euro, 12 euro, insomma, una media di 20 euro al giorno. Sono misurava. C'è Natalino, c'è Luca, Manco, X, e ce n'è di gente, c'è Marco che è andato al Mico a salutare la commessa. E io sto rientrando adesso in casa, stavo facendo commissioni. Ma le 7.30 hanno cominciato a farlo? No, ecco Maggio, che ancora non l'ho portato. C'è tutto pronto, però mi ha detto fine mese di portarlo. Ora quanto dovrà venire il 7 di giugno, quindi? Io già ce l'ho sotto casa, non faccio nessuna fila né niente. Non posso, me lo fa, sempre attaccato al mio portone. No, neanche io fare fila, io ho la cartella, la do al mio collega, ma non fa la moglie che è commercialista, capito? Pago tutti gli anni, 25 euro. Lo so. A volte, lo sai che un mio collega le avevano preso tutto lo stipendio, una volta. Perché avevano sbagliato durante l'anno a fare le trattenute e praticamente poi hanno dovuto prendere tutto lo stipendio. No, non me ne vanno ogni anno. Comunque, a giugno non so se ho preso quasi 2000 euro. Quest'anno se l'avrei fatto la stessa cosa più o meno, io c'ho molto. Questo è un fattura, ma ci sono 4, 7 per 4, 28, 280 euro, 2 milioni, 4 visite ho fatto per la metodica, la fattura, con le serve sì, la fattura, specchia per mia figlia. Più che altro sono scontri di farmacia, visite specialistiche, tutte queste cose qua. Ci ho fatto un bel, a colpi di 80, 50, 80, 60. E come me, io sono 4 l'arrivo dell'80, poi quelle altre visite ho fatto, poi sono quelle di mia moglie. E poi ci voleva anche questa, ero con i piedi scalzi, l'altro giorno hanno trascurato il telefono, vado a rispondere, mi ha sbattuto il dito cazzo del piede che stavo curando al divano, mi si è fatto tutto viola. Mio dolore, io la porta, la punta della porta un giorno, la punta della porta. E adesso ho comprato questa pomata, cazzo, 11 euro, un tubetto di pomata, 11 euro. Vado a comprare il cerotto per chiudere le bende, eccetera, eccetera. Quello lì altri 11 euro. Si può comprare farmacia, per quello dicono, per una farmacia che non è caro. Non si può comprare. Ma infatti è proprio così. Non dice un esercizio, ma una farmacia non c'è molto cara, poi ce la mettono in farmacia, sempre veniva in miseria. C'è il dottor Masala qua che è morto, ma carbonate, sempre la mettendo, sempre, da quando ero di farma io, sempre mettendo, siete convinti voi qui là. Però tenale, c'ha tre farmacisti femmine, proprio farmacisti e farmacisti, poi ne altre due li ho visto nuovi da poco. Farmacisti lo stesso, non è poco di niente. Ce li hanno i soldi. C'è quella del monte di via Farina, che praticamente è sempre zeppa, o via Romagna, quella di Buc, sempre zeppa, sempre un negozio alimentare, c'è la fila, c'è la fu, sempre, pieno, e sono 4. Già, questo quartiere è grande, è l'unica farmacia che c'è, tutta. Figurati tu, ci non guadagna. Poi c'ha tutta la roba, quella anti, come si chiama? Insolenza glutine, tutta la pasta, non so come, capito? Che c'è un reparto a parte, anche lì ci sono due commesse. Sì, anche questa qua. E vabbè, ce n'è una in via Pascoli, anzi due in via Pascoli, una alla fine di via Pascoli e una all'inizio, dove c'è il fornitore di rubi. c'è sotto, e prima c'era una proprio a fianco a casa, quella mi raccomando, uscivo dalla dottoressa e andavo in farmacia. Adesso questo qua ha vinto il concorso a Roma e sono andato a Roma, ci ha portato la farmacia a Roma, perché lì era continentale, capito? Ah, come si chiama quello che sembrava un tubuio, non me lo ricordo più come si chiama, quello che c'ha per Danita. Che non danno garanzia, invece la danno la garanzia, e come se la danno? Se poi lui garanzia, dalla volta che ho preso quel baracchino, che era difettoso, gliel'ho portato e mi ha detto che l'avevamo manomesso lui, ha trovato la scusa, capito, per non aggiustarlo. E che antenna hai preso, Vattalino? Fatto bene, almeno va bene con la merenda, ciao Lucrezia. Vabbè, sì, tornando adesso sto facendo la spesa, un po' di tutto, andando in farmacia, ho fatto il giro delle chiese oggi, sono andato a fare la spesa, poi sono venuto a casa, mi ho preso atteso per non lasciarlo solo, e me l'ho portato con me. In farmacia lo fanno entrare, lo fanno entrare anche dove sono andato al tabacchino, quindi devo caricare il telefono, solo le negozie alimentari non li fanno entrare. Perché? Perché roba alimentare non è igienico, dicono così. Comunque Taiso si è sempre comportato bene, quando è entrato nei pusti non ha mai pisciato né niente. Vabbè, ma sai cos'è, cane, però io non sono d'accordo a far entrare i cani nei negozi, anche se molte volte è meglio un cane che un cristiano. Ma se tra le zingare e viagane che non possono stare, Taiso è profumato, che sento l'odore è profumato. Una volta si è fermata questa tipa, ah, che bello, ci ha dato un bacio, che bel profumo, si vede che ti è venuto bene, me lo regali. Ma un cane ha un profumo? E le salviettine profumate li passo, sì, perché è parte integrante della famiglia e quindi deve stare, non deve avere odori. Che cosa li compri quelli? A che profumo li compri? Ce n'è uno nuovo, l'ho comprato io da poco, ma c'è tanto è profumato. Un pacco ne ha 15 di vino. Lo so, Claudio, però io ogni volta che sono adesso li pulisco le zampe, pisellino, sedere, tutto qua. Al talco glielo compro io, solo al talco, perché mi piace quello. E quello lì al talco, buono. E tutto anch'io, le zampe, sedere, pisellino, le orecchie soprattutto. Sempre il muso è sempre anche a casa. Sempre curato il muso. E poi sta sempre annusando, facendo, sposta le foglie, le cose. Perché ne avevamo la tarmacia di foglia, lui ha detto. Invece io il primo giorno l'ho portato all'edicola a prendere il giornale, tutti i canti era più piccolo, tutti i canti, esce questo, mamma mia quanto è grande, non ti viene in mente, era piccolino, aveva un anno e mezzo, lui andava. Tutti accarezzando, taranca, tutti i giornali a pisciare. Io sono andato al tabacchino di via Baldetta e fuori c'era un pitbull bello grande, bianco a chiazze nere, e stesso stava facendo voleva andare a tutti i costi, il settore si attacca nella buca, invece quando sono uscito si sono abbracciati, si sono messi in piedi, tutti e due si sono messi a giocare, e quello c'ha un anno e mezzo, non è che sia piccolo, però il padrone ha detto che l'ha educato bene, non è con tutti i cani, mi ha detto, non c'è da fidarsi molto, ma se lo vedi sconsolare è tranquillo, non è con tutti i cani, con qualcuno si attacca. Ciao, vuoi accoppiare, vuoi far accoppiare con un boxer femmina? No, ma io ho chiatte gialle e marroni. No, oh, un altro, Non lo so, è in calore. Fate una volta, cosa è già? Ho detto di chi esce bello, è il boxer femmina. Esce bello anche col pitbull, io l'ho visto l'incrocio Sharpie cinese col pitbull, è bellissimo. Non sembra manco un cane incrociato. Adesso ti faccio vedere, ti mando la foto, aspetta. Prende tutto, Gianni, prende tutto. Quando il cane è di errata, ma io lo sai quante ricchiette c'ho. No, se ti faccio vedere il telefonino, di l'aria ti spaventi. Ma arrivano a decine a fare l'incrocio col pitbull, col boxer, con il anche con lo Sharpei, con quel. Non mi rogo io di cani, il mio è un bulldog inglese, si deve accoppiare con un bulldog inglese, se no tu cosa ne esci? Che pedigree le dai a questi cani? Non le posso dare manco il pedigree, capito? Perché se la femmina non ce l'ha, che il maschio c'ha il pedigree, e si accoppiano razza con razza, io te lo posso dare il pedigree. Ma se la razza non è uguale alla mia, io non te la posso fare per i grigi, perdi tutto. Cosa ne fai a quelli che si cani? Li devi regalare. Li regali, per fargli fare la punta a Taiso, perché è in gara. Ehi, me la vedi voi, non si arrangiano i cani, si arrangiano. Io se non trovo anche veterinario, ma è la stessa cosa, ma no, se ne frega, già le faccia, non si preoccupi, non succede assolutamente niente, non è come il gatto, capito? Il gatto lo sterilizzi, lo fate sempre mi adolendi, quando è in calore, il cane non è così, capito? Io ho visto già si arrangia lui ogni tanto quando lo porta al boschetto, si fa una pippa, è felice, contento, è con i tigurri. No, ma praticamente fanno gocciolare lo sperma, buttano lo sperma, fanno cadere le gocce di sperma se sono in calore così, capito? Non l'ho mai visto io, figlio. Non ho mai trovato niente, mai visto niente, non lo so. Cosa vuoi ti dica già, però io la penso così. Non per accontentare a lui, poverino, potrei anche farlo, però non fa. Assolutamente, a parte che è un bestiame già, lascia perdere, ma un mangaglio pare un manico di picco. Chi è duro? Oh, l'altro giorno c'aveva il glande che era talmente gonfio che sembrava un palloncino. Ma vedi, i molossi sono così, cioè, detto proprio la veterinaria, sono ben dotati i molossi, capito? Quindi se uno cani brinca, riceve te, cioè, no, ne voglio responsabilità, cioè, lascia perdere, assolutamente. Si abbiglia a luci, non ce n'è a Sassari come lui, grandi così, quelle piccole femmine, bulldog inglese, le passano sotto, cosa devo fare? Non ce n'è, ci abbiamo un paio di chiese, due da Macomero, una da Rizzano, una da Nuvola, ce n'è una da Alghero, viene qua, ospite mio, rimane qui, ma non sta qui, ma non ti sa, ha fatto altri, me lo lascia il cane, ti lascio, ma se ho ripreso, 2000 euro di cane a te adesso. Se non dovessi andare a mangiare mi muore il cane, ma non te ne fai. No, per lui bisogna incontrarci, magari parlare così, i cani giocano e poi fanno, e da voi di robusti cosa nasce un gatto, così mi aveva detto quello della scuola guida quando c'è quel gatto, voleva farla accoppiare col suo, che era un persiano lo stesso, quello era grigio, quando l'ha visto se l'è innamorato, quello della scuola guida dei Monti, ho capito chi è? Sì, è quello molto bello. Bellissimo quel gatto, non bello. Tra il tuo e quello di Nello, non mi piacevano favolosi. Quando l'ho visto se ne è innamorato e mi ha detto, me lo lasci un giorno, no, io non li ho lasciati. Guardi che io gli do petto di pollo da mangiare, do roba buona. No, no, non glielo lascio il gatto, mi dispiace. Lo facciamo accoppiare mentre c'è la lezione. L'abbiamo chiuso in uno stanzino e dai, cose titi, lo sentivo mangolando. Allora alla fine sono uscito, stavo facendo lezione io, sono uscito fuori e mi si è cagato addosso, mi ha sporcato tutto perché deve essersi spaventato, era anche morsicato, quell'altro gatto, sì, non ci voleva stare, deve essere, non gli piaceva, e via, me l'ho portato via morsicato e l'ho dovuto anche curare perché ha dato un morso in testa. Gianni, ehi, ciao a tutti, di nuovo Marco della Barbara Mobile. Ti volevo chiedere, quell'antenna che avevi tu, no? La LEM AT71 su base magnetica, ce l'hai sempre? La mia? Ehi, quella su base magnetica. No, l'ho venduta. Ragazzo, sei Natalì. Venduta. L'ho venduta a 40 euro. Ehi, no, perché c'è Natalino che ha lo stesso attacco. Quella sulla sua macchina sarebbe stata perfetta, pazienza. Cos'è, attacco a farfalla? Ehi, lo stesso che avevi tu. L'attacco a farfalla. No, non ce l'ho più, mi dispiace ma non ce l'ho. L'ho venduta, ma da parecchio mi manca. Mi è rimasta una PLC 800 nuova di zecca senza nemmeno toccare, perché l'avevo presa in cosa che prendevo la macchina nuova, però non l'ho presa perché avrei messo quella nella macchina nuova, invece poi non ho preso la macchina, è rimasta lì e nuova. No, te l'hai presa tu la macchina, l'hai comprata tua moglie, basta la bucaglia e la cappotta. No, vabbè. La macchina, la mia va ancora. Quella sua, la Panda non era più sicura, era senza airbag, cosa, doveva viaggiare a Urbia molte volte dal fratello, eccetera. Adesso il fratello, vabbè, l'hanno trasferito qua, ma prima era Urbia. No, già la Panda, tu c'era la Peugeot, sto scherzando, già buchi la Peugeot. Ho detto, non te l'hai comprata tu, ma già l'hai comprata la stessa nuova, a tua moglie la macchina. Sì, la Peugeot. Appunto, quello che stai dicendo, la Panda, quella, la Panda, non ce la vedi, la Panda, lascia perdere. Cioè vabbè, no, macchina nuova non ne buco io, assolutamente, no, io non me ne faccio niente, non ho messo neanche le due, le una, la 600, niente, posso bucare a 100, fare, no, non me ne fa più nulla, se non lui ci ha fatto la notte, e a me già mi piace, quando viaggio mi piace parlare, se c'è gente e cose, già mi piace, poi adesso lo posso fare tranquillamente, anche quando vado fuori e cose posso accettare. Accetto che sì, no, io ce l'avevo nella furgonetta perché ce l'avevo fissa, poi ci hanno fatto il deposito a carica, quindi mi ero frescato e stacca, anche bucato tutto. Capito? Quando ce l'avevo a casa, ce l'avevo una furgonetta, le due lì, un po' a casa, piccolare ce l'avevo. L'avevo acceso, intanto sentivo qualcuno e via, capito? Però adesso non ho messo più, e non ne voglio più, non ho più. Nata Pignà. Emmo, adesso sono a casa a cercare il parcheggio che non c'è. Questo su handicap, cercare il parcheggio che non c'è, non direi che camera da letto sta macchina. Ma buh, dai, io vado a mangiare, ciao, alla prossima. Ciao Luca. Una buonaccia a tutti, ciao. Vabbè, mandatela questa fotografia. Aspetta, la mando, su WhatsApp te la mando. Ciao Lugarie, buona serata. Fa un po', io sono, ho detto meno 10. Stacco anche io. So per poi il pesce, mia moglie non tanto hanno a fare, quello devo pulire. Limone, olio. Adesso che andiamo, stavamo. Prima tutto c'è, cioè, olio di pesce in bianco. Ma stai facendo merluzzi? Sì, merluzzi bolliti. Capito? Merluzzi bolliti, stanotte leggero. Come si dice? Olio, limone. E poi un po' di pomodorini a contorno. Non so, un po' di patate pesce, vediamo cosa sta facendo. Ma non ho detto male il Giappone, non ho detto fuori. Se lo rientro, c'è una città e stomaco, non rimane nulla. Io il merluzzo guarda, lo vedevo come il pesce degli ammalati, perché mamma me lo faceva quando avevo la febbre o stavo male, no, mi faceva il merluzzo così, con l'olio blu del limone. Invece poi l'ho mangiato a casa, fatto da mia moglie, però prende quelli grandi, li fa a tranci, li impana, li, non so se li mette la pastella, cosa li mette, e poi li frigge, ma cosa che anche sono buoni, impari il baccalà. Il baccalà mi piace, a mia moglie non piace. No, questi sono grandi, sono belluti grandi, cioè pronti, tagliata la testa, capito? Ce lo pulisci 10 minuti neanche, lo ritorno, faccio raffreddare, tolgo la pelle, pulisco bene, metto nella pioffia lì, olio, limone. No, io già le mangio spesso. Avevo voglia di serretto briscio, ma fa un odore. Oh Gianni, sei arrivata, te l'ho mandata. E adesso qua guardo. Queste solite come stavano in campagna con le chiatte, no? Questa qua lì, quello è bello, no? Bello, allora, bello. Macchie gialle e a chiatte marroni. Se proprio quando sei cagato. Ti piace già, bello? Ah, fanculo. Sì, ma l'avevo già vista questa cosa, non mi è venuta in mente, l'avevo già vista il giorno del primo aprile, l'aveva messa Luca su Facebook. Bastardo. Oh, cra. Come che frega, sono queste chiatte marrone e gialle, non va bene, non va bene. No, va bene, sembra le mutande di Marco. Sì, va pure io scappo, dai, ciao, a domani, ciao. Ciao Lucia. Oh Claudio, ma sei sceso a portare il cane? Ilaria l'ha portato, mi gioco già arrivato. Non ha portato, ha fatto solo la pipì, però a volte ci sono delle scene che non la fa, capite? Non la fa, se la fa per esempio tardi all'ora di pranzo, la sera non la fa. Quindi non ci scendo più. Stasera a me mi ha fatto un brutto gioco, mi ha tirato lo strattone e è riuscito a tenermi il guinzaglio dalla mano. E ha cominciato a correre. Ma com'è adesso il piede ce l'ho messo un po' a posto, dai. Non ricorso, ho messo il piede sul guinzaglio, se no cazzo mi scappavo, ma te ne immagini. Così fanno, cazzo, in cimolo ci sono una cosa allucinante. Io perché non lo posso mollare a fritto, solo con Mario lo porta giù dove c'è la circoscrizione, lo molla e lui gioca aperto, però tutto aperto. C'ha il suo richiamo, fium, e parte e gli si mette vicino. Io posso fischiarlo mille volte, sì, viene, ma oh, quindi a Mario immediatamente, subito, ma perché lo porta sempre lui a fare queste cose, capito? Quindi c'è obbedienza anche con me, ma non come lui. Infatti mi incazzo, dico, mamma mia, la sentite con la capo fuggana. Dice, pari il fischio che gli ho insegnato io da piccolino, ma io non faccio il prosciuttoio. Lui come sente il fischio mio, sì, capisce che io lo sto chiamando e viene, però piano piano, oppure aspetta, me ne faccio due, tre, Mario uno solo, uno, momenti, brucia Mario e sbatti, tutun, tutun, tutun, mamma mia, poi come fa a incazzare. Vabbè, ma sono un po' contro loro i molucchi, perlomeno. Se vuoi un cane obbediente non prendere uno Sharpei, così c'è scritto. No. Quando io sono andato a vedere come si comporta il comportamento del cane, se era cattivo, eccetera, eccetera, c'era scritto in prima cosa, se vuoi un cane obbediente non prendere uno Sharpei, perché lo Sharpei ha un carattere autonomo e non è molto obbediente. Tutti i molucchi già sono così, c'è il mio vicino, c'è il boxer, c'entra di Goglio. Quando lo porta, perché lo porta, si conosce anche con Filippo, giocano, anche perché è femmina, la stessa cosa, lo chiama 10.000 volte, la chiama, 10.000 volte, punta, non venuta là, dice mamma mia quanto è sorda, ne è stata la testa, eppure da piccola mi ce l'ha, da piccola, però questo mio, quando è arrivato, l'ha tenuto un po' di mesi Mario, capito? L'ha tenuto un po' di mesi Mario. E quindi evidentemente con questo fischio che le fa lui, da piccolo ha insegnato a ubbidire. Io non riesco a farlo il fischio che fa lui, cosa vuoi dire? Se ne accorge oramai sente, lo sente spesso questo fischio, quindi viene. Però non corre subito, immediatamente, come ti va a un Mario. Capite? A me mi ci viene il bibirista. E poi il fatto che lui lo porta sciolto, lo porta in spiaggia e le cammina vicino. Non ti muovere da qui, stai fermo, ce l'ho io, ce lo porto io, poi ci andrà il coglionco un ragazzo a Marina di Giorgio. Oh, yeah. No, vicino a casa ce n'è uno di boxer, molto bello, femmina, si chiama Rasha. Ma lo sai quanto è obbediente? Il padre fa... E subito parte a raso, qualsiasi cosa sta facendo, molla tutto qua. È una cosa allucinante, lo lascia sempre libero, non li mette mai il guinzaglio, perché lui giocherellone con tutti, non si attacca mai a nessun cane, sta sempre giocando. Ed è Mannomi, sopra 4 anni già. Ehi, Marco. Hai visto. Ogni tanto c'è un po' di fortuna. E dove vieni? A fare coppere. No, io già ce l'ho. Quanto ti stavo dicendo? Guarda che se vuoi fare l'assicurazione, telefona alla Liguria Assicurazioni che fa degli ottimi prezzi. Io ho fatto l'assicurazione e poi ho telefonato alla Liguria e mi faceva 30 euro di meno, grazie. Mi sono mangiato le palle. Io l'ho preso da internet. C'è la scritto Liguria Assicurazioni che poi adesso è diventata lui, una cosa del genere, ha cambiato nome, però è sempre ci dice scritto Liguria. Tu lo chiami, gli devi venire il numero di targa della moto, avere il codice fiscale e loro ti dicono, dopo un po' ti dicono quanto paghi, capito? Dici, devo fare l'assicurazione, ma cioè, ci risparmiamo più di 38 euro, quasi 40 euro. Il fatto è che l'avevo già fatta l'assicurazione, se no me l'avrei fatta lì. E già va bene, si sente che è normale, ma già è abbastanza buona. La radio. Non è brutta, dai. È abbastanza bella la radio. Cava. Oh Marco, mi sa che io vado, devo portare giù il cane. E poi domani sarà un'altra giornata di lavoro, è un bel lunga questa settimana, mamma mia. Non vi ammeggia, laggiù una gana, Sant'Antonio mio. Un bel lunga, io sono a dolori, sono tutto quanto bussumare, mi tocca andare con questo piede così. Adesso c'è anche il dito. Solo lì se mi mancava. Ma allora io non volevo l'ora, perché adesso stiamo entrando alle 7 e stiamo uscendo all'1.25. Non volevo l'ora, all'1.10 sono partito da Sedini. Sono andato a Sorso che erano l'1.15, l'1.20. Sono cambiato, mi sono andato. No, nuda, era tutto bene, c'era un po' di gente in ufficio. Ciao, via. Sono andato, 2:05 oggi a casa, perché non avevo voglia di niente, questa settimana le balle, c'è un sacco di cose da fare, poi ci sono delle relazioni che devo consegnare entro 10, mamma mia, guarda, viene poco bambino. Ciao Marco, ciao. Ciao Marco, sono qua, dai, c'è anche Natalino. Se te ne immagini, come ho sentito salutando, ciao Marco, te se si è divisato in piedi, la cuccata si è divisata dritto. Niente, Filippo fa così. Niente, Filippo fa così. Adesso mi ha aperto la porta finestra, si può aprire, è venuto qua. I piani sono, non c'entra a fare. Meglio. No, poverino, lo sciaccere anche tu, quindi non danno nessun fastidio assolutamente. Anzi, se non ce l'ho, guai. Qualche volta arriva a casa il cane e l'aria va fatta in giro, no, ma è solo uscito. Gli tieni che arriva, poi arriva, tutto mi lecca. Sono molto affettuosi questi cani. Sono molto affettuosi. Quello mi piace molto, lo stesso a casa è il poker, che c'è la mia sorella, mamma mia, nella sedia si siede. Come tutti gli altri ti ripiglia la gandria, si boccia. Il cocker, sì, ce l'aveva anche Antonio. Antonio, la moglie di Antonio, da quando erano fidanzati, c'aveva questo cane, questo cocker, che poi è diventato diabetico, ha perso la vista ed era cattivo con tutti. Avevamo scattato a Manuela una volta che siamo andati a trovarlo, Manuela era piccolina, c'aveva il pane in mano, ma ci siamo scattato una mano. E infatti a Torino poi si era chiuso dentro la stanza, perché dice che quando sente l'odore, sentiva l'odore di persone che non erano di casa, si girava perché era prevenuto, perché era cieco. A tuo giorno come c'è, a te dove stava tarando un risotto e portato. Il corpo e il cognome ti chiama, sappiamo comprendivo, il tuo merda, non è giù io me lo aiuto. Oh Gianni, tu lo chiami per cognome, io sono stato chiamato per nome. Chi è che mi chiama per cognome? Tu? Sì, ma dico il merlo. Ah, l'avrà detto scherzando, ma mi chiama per nome a me. Ciao, non capivo, tu, ma tu. Non ci disegni. Gianni! Allora Gianni, tutte le sere sentiamo in radio, salutamelo, va bene. Sì, l'ho visto l'altro giorno con la figlia, guarda, non lo stavo riconoscendo, tutto pelato, tutto buco. È molto diverso da prima, da giovane c'aveva i capelli a caschetto, era un bel ragazzo, capelli a caschetto tipo Dewey. No, non siamo con capelli in testa, era in Gojak, siamo un Gojak, sì. Molto sacrificato questo impegno che gli hanno dato, è molto, riesce la mattina, timbra, lì era quell'otto, poi è in giro, tutta la Sardegna fa, è responsabile dei telecontrolli, dai, capito? Quindi è sempre in giro, tarando, controllando, facendo le manutenzioni, sono, mamma mia, ecco, non ce la faccio più. Trovo due biciclette, tanto Ferrara, arrangia, ti lascio avanti in carichi, mi volevano dare a me. No. Ma no, non lo so fare, guarda, non lo so fare, no, facciamo i corsi, no, non mi interessa a me, io voglio mio il due, che dura mi andando a casa, lui non c'è mai, ma rientra anche alle 7, alle 8 di sera, c'ha la reperibilità tutti i sabati e tutte le domeniche, perché è l'unico che fa quel lavoro. Ma che ce ne ho beh. Antonio, e Antonio passa più di 2000 euro abbondanti, ma di brutto. Già è un ragazzo che si è superato da fare, già il ragazzino aveva una buona manualità in tutto quei motori, con tutto qua. Io mi ricordo che si aveva fatto il motore della 500, avevamo fatto il motore della motovia, insomma, il trattore aveva smontato, in campagna aveva fatto il motoriello. E quando ho visto tu che lui faceva servizio a Canica, allora in Pianto Vecchio era conduttore come me, però c'era la mansione anche di elettricista, capito? E si occupava la manutenzione elettrica, la faceva tutta lui con l'impianto, perché no, non ce n'erano, eravamo con i depuratori allora, capito? Quindi poi ha fatto tutti dei corsi di aggiornamento, delle cose, perché c'ha le mani d'oro, la verità. Poi è una persona bravissima in tutto, educatissima, non lo sente mai a voci, nulla, lui è sempre tranquillo e sereno, educatissimo, ma quando ci sono dei lavori da fare, so che lui è in giro, deve passare da me, mi chiama, ah, che ora ci sei con l'impianto, non ti preoccupare, dimmi tu a che ora ci sei, io mi faccio altro, poi ti vengo incontro, e dice, oh, sto arrivando, fatti trovare mentre vado di nome, mamma c'è, ma non lo so come vuoi dai tu, adesso sono da un'altra parte, ti chiamo io, quando sono lì ti avviso e tu vieni, invece lui no, lui sempre organizza tutto perfetto. Io non l'ho conosciuto quando ero ripetuto a Canica, io anche non lo conosco, avevamo 14 anni o 15 anni quando ci siamo conosciuti, se esattamente ci siamo conosciuti all'istituto agrario, perché io ho fatto 2 anni di agraria e poi mi sono ritirato, invece lui ha continuato. Eravamo cibi tutti e due, lui era Sambuca e io ero doppio rumo. Ecco perché ci chiamiamo con questi nominativi qua, perché avevamo messo i nomi di due liquori. Ed non li vidi, ma con lui. Sì, no, vabbè, dico, quando tu per esempio andavi con lui, eccetera, lui sì, faceva i turni, era conduttore, io ero perfo, se lui era a Canica. Però aveva anche un altro incarico, capito? Io poi quando sono passato a Tunco Reale ho continuato a fare i turni e poi vabbè sono state corsi eccetera e hanno fatto queste squadre dove sono ancora lì, però anche io attorno a Consonsa bravissima persona, veramente, non ho niente da dire rispetto ad altri colleghi che ho, una persona che si sa organizzare, sa lavorare, parla con molta serietà, soprattutto del lavoro, no? Quindi sì, qua ci vuole farlo, ma quel giorno mi hanno messo la prova uno, ho detto un casino, non mi piace. Ogni volta che salta il manetto tecnico sfiamma, e poi c'è un ballo, non passa a pigliarlo, mi ce l'ho in macchina, e cambialo, tu decido, se no è cambialo però, e tu dici facciamolo tu, ma questa gente così spavolta, non mi piace per nulla, e manco ancora mi piacciono, perché quando sento la gente parlare così, fai da bravo, non è così, non devi fare così, c'è da attaccare la linea, c'è da andare a fare tutte le fasi, c'è da toccare quello, c'è da toccare quell'altro, capito? È molto organizzato nel suo lavoro, invece vieni da te, ti dici proprio qua, mi... Sì, all'acqua di rose, no. Che trova nel suo proprio nello stipendio. No, io oggi dico la verità, non lo potevo fare per il piede perché non c'avevo sui vali, ma si è allagato tutto quanto il tetto, siccome hanno fatto le pendenze male, si è allagato tutto, si è formata l'acqua stagna e stava perdendo, stava entrando acqua, stava trasudando l'acqua qua in negozio. E mi ha chiesto se potevo andare a prosciugarlo, a far riscorrere l'acqua negli scarichi, ma non gli ho detto di no perché non c'avevo stivali che mi stavano. Ho detto con queste scarpe non ci vado perché se mi bagno il piede me lo rovino. Uno che ci sono, c'è anche cacca di piccioni lì, che non è una cosa che va bene per chi ha il piede così, diciamo, che ancora non è guarito del tutto. No, soprattutto dopo prendere infezione, no, lascia perdere già. No, tutti i piedi. Perché non lo volevi fare, non si può fare, assolutamente. Io prima facevo tantissime cose, poi ho detto basta e quindi non le faccio, assolutamente. Ci sono tre posti per fare queste cose e quindi lo fanno loro, non è che tutte le volte devo sempre intervenire io, no. Una volta devo guardare dentro a un tombino a scale, vi dico di Ferrari, noi chiamiamo gallerie, 6 metri era sotto, quindi tutto chiuso, sono sceso con la maschera, l'ossigeno e tutto, però non sono lavori che devo fare io, perché c'era una sera cinesca bloccata e quindi nessuno riusciva a sbloccarla. Sono sceso con la chiave per sbloccare le sera cinesche di quel volantino, l'ho sbloccata e sono risalito, però sono cose che io non devo fare, non mi voglio più. E lì ci sono gas, bisogna stare attenti, perché si formano dei gas da raffoni e roba del genere, si formano dei gas che fanno male, ti possono far svenire e ci rimani dentro. Vabbè, d'accordo, io vado che è già tardi, non me ne ero accorto che ero così, le 8:10, mi stavo trattando troppo. Dai, ci sentiamo magari domani, dai, ciao. Ciao Gianni. Ciao Marco. Ci sentiamo, dai, ti lascio in compagnia di Claudio. Ciao Gianni, alle prossimine, dai. Ci sentiamo. Allora, Marcolino sempre in piedi. No, sempre seduto, guidando, in piedi ci ho stato poco. Poi alla schiena, mi stanco anche a guidare, seduto, te ne immagini? Vabbè, no, perché siamo già usciti stamattina, quindi... Immagina se dovessi fare chilometri e chilometri a piedi, farebbe l'infarto e finalmente andrei in paradiso, o forse anche all'inferno, chi lo sa? C'è la schiena a pezzi, oggi stiamo facendo ispezione di condotta, nella zona di tre serie di buzzi, immagina già di tutto. Ho già fatto chilometri oggi, blocchetto in mano e strumento in mano per le perdite. Io l'ho messo con buono, è stato ricco, è stato in chimio bruccio. Meglio, comunque, parliamo a torre, ripeto, minimo 6,50 alla Brico Center. Non Brico, ma nel Brico Center, minimo 6,50, quindi lì hai pagato la comodità che è vicino a casa tua, dai. È più vicino a casa tua, diciamo, se no ci devi uscire da Ushanami. Tu fai la fila da casa, no, quando io, va, c'è un po' lì all'altro risparmio, infatti mi ha detto costante. le curve di faccia, mancava mezz'ora, magari mi ha segnato un attimino la spia. Ma c'è un secondo, Marco, che c'è roba nel fuoco, un secondo, un minuto solo, chiama Natalino, dovrebbe essere qua. Ehi Claudio, io ti devo lasciare perché sto mangiando. Sto pranzando solo adesso. Quindi dai, chiudiamo subito. Ci sentiamo domani, dai, sono anche stanco. Ehi Marco, dai, allora mangia, io sono qua in ascolto.